sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Confindustria dà l'ok alla manovra, ma mancano interventi strutturali. Marcegaglia, l'emergenza nazionale è la crescita e chiede tagli alla politica. Confermato l'addio alle mini province, lo stop ai salari nel pubblico impiego, arriva il pedaggio sulla Salerno-Reggio Calabria. Il mistero dell'uomo d'affari turco sequestrato a Rimini è stato liberato oggi, si parla di una richiesta di riscatto da 27 miliardi. A Roma l'inaugurazione del museo Maxi, apertura al pubblico il 30 maggio. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura di questa edizione, l'assemblea di Confindustria che si è appena conclusa, il punto sull'intervento della presidente Emma Marcegaglia con il nostro Sebastiano Barisoni. Sebastiano. Sì, di nuovo buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Come ricordavate da studio, i due punti principali toccati dal presidente di Confindustria, che in una relazione durata oltre un'ora ha fatto anche un bilancio del giro di boa del suo mandato, i primi 2 anni. Emergenza nazionale, questa è la definizione della mancata crescita economica del nostro paese. Emma Marcegaglia ha ripercorso tutti i motivi per cui si è arrivati a questa crisi, giudizio molto duro, tra l'altro, per inciso quello dato alle agenzie di rating capaci solo di fare autopsie, ha detto Emma Marcegaglia, specializzata in autopsie, ma che mai hanno visto e anzi hanno avvantaggiato la diffusione di titoli tossici in giro per il mondo e mai hanno visto le crisi delle società che andavano a valutare prima che si verificassero. Ma veniamo ai punti più importanti toccati dalla presidente di Confindustria. Ha definito buona, ben impostata la manovra finanziaria, anche se mancano appunto le riforme strutturali per contenere la spesa pubblica. Ha chiesto che venga tagliata in maniera più incisiva la spesa pubblica, venga riformato il fisco anche attraverso una lotta all'evasione fiscale e soprattutto la critica ai costi della politica. Ha parlato di timidi segnali, quelli arrivati dall'ultima manovra finanziaria, quindi riduzione prevista dello stipendio della politica e di dirigenti della pubblica amministrazione, così come dei timidi segnali sono stati definiti quelli relativi all'eliminazione delle province più piccole. E il passaggio forse più applaudito dell'ora e un quarto di intervento della presidente di Confindustria è stato quello in cui ha ricordato come l'industria politica è l'unica industria in questo paese che sembra non conoscere crisi. Sentiamo. Grazie anche al nostro lavoro e alla disponibilità dei ministri competenti, finalmente si è definito un provvedimento che impedisce un comportamento incivile, quello di amministrazioni pubbliche che non partecipano alle conferenze dei servizi, che non guardano neppure le carte, che non si presentano e bloccano così anche per anni gli iter autorizzativi. Finalmente questa cosa è stata terminata. È importante che questo provvedimento che è inserito nella manovra diventi legge prima possibile. Ma l'inefficienza pubblica, dobbiamo dirlo, non è figlia solo di logiche lontane dalla produttività. Nasce da troppi interessi partitici, troppe rendite da salvaguardare. Diciamolo chiaro, la politica dà occupazione a troppa gente in Italia ed è l'unico settore che non conosce né crisi né cassa integrazione. Questa è la critica, quasi un attacco alla classe politica per quello che riguarda la necessità di avere un rilancio complessivo dell'economia del paese. Emma Marcegaglia ha anche fatto un appello alle banche affinché stiano vicine alle imprese, ha ricordato che la crisi ha bruciato fino ad ora 700.000 posti di lavoro. Poi l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi, un intervento più breve di quanto non ci si attendesse, poco più di un quarto d'ora, un intervento a braccio in cui non sono oggettivamente stati toccati i punti della manovra, devo dire che già ieri Berlusconi li aveva illustrati in conferenza, ha ricordato Berlusconi di essere d'accordo con la maggior parte dei punti, dei temi toccati dalla Presidente del Confindustria, a parte una critica arrivata al mancato processo di liberalizzazioni messo in opera da questo governo che il Presidente del Consiglio ha respinto, e poi l'invito tra il serio e il faceto a Emma Marcegaglia a far parte del governo Berlusconi, prendendo il posto del Ministro Scajola alle attività produttive, invito però non raccolto dalla sala degli industriali. E per quello che riguarda l'Assemblea di Confindustria qui dell'Auditorium della Musica a Roma è tutto. Grazie dunque Sebastiano Barisoni, il quale ci parlava dell'invito di Berlusconi alla Marcegaglia. Ebbene, ascoltiamolo. Come vedreste la nostra Presidente di Confindustria di fianco al Presidente del Consiglio per dargli una mano come Ministro dell'Industria e dello Sviluppo. Chi dice di sì alzi la mano. Nessuno alza la mano? Volete che rimanga in Confindustria? E allora non ve la dovete più prendere col governo. Non ve la potete più prendere con quei poveracci che stanno al governo di questo paese, la cui situazione è stata ereditata da tutti coloro che hanno governato nei decenni precedenti e da qualcuno anche che dal 1980 al 1992 è riuscito a moltiplicare per 8 il debito pubblico. E all'Assemblea degli Industriali è arrivato però anche un messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha detto che la cosa fondamentale è la condivisione degli obiettivi. Sentiamolo. Compio ogni sforzo, come è mio dovere, per rappresentare e valorizzare quel che unisce l'Italia affinché ciò prevalga su ogni esasperazione di pur legittime distinzioni di interessi e di posizioni politiche. Occorre una maggiore consapevolezza in tutte le sfere sociali e in tutte le parti politiche della portata delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare insieme con l'Europa in un mondo che è profondamente cambiato e tende ancora a cambiare. Condivisione, almeno nell'individuare obiettivi e grandi linee da perseguire, con la necessaria coesione e continuità. Questo dunque il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Intanto è stato diffuso il testo definitivo della manovra. I dettagli. 150 pagine, molte conferme e alcune novità nella versione definitiva della manovra. Viene ad esempio introdotto dal 2011 il concetto di premio fiscale per la parte di salario collegata agli utili aziendali, il cosiddetto contratto alla tedesca. Piccoli aggiustamenti anche sul fronte dei tagli agli stipendi degli statali. Per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo non potrà superare l'importo del 2010 ed è previsto anche un taglio del 5% per i redditi superiori ai 90.000 euro annui e del 10% sopra i 150.000. La scure sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici non consentirà inoltre ai rinnovi contrattuali stabiliti nel 2008-2009 di superare la soglia del 3,2%. Dal taglio sono salve le forze di polizia e i vigili del fuoco. I compensi ai collaboratori dei ministri saranno inoltre tagliati del 10%. Risolto il giallo intorno alle province, fra 4 mesi ci sarà la completa soppressione di 10 mini province con meno di 220.000 abitanti, questo secondo i criteri dettati dall'Istat. Si tratta di Biella, Vercelli, Massa Carrara, Ascoli Piceno, Fermo, Rieti, Isernia, Matera, Crotone e Vibo Valentia. Arrivano infine i rincari sulle autostrade, non solo per i raccordi, ma anche autostrade in gestione diretta dall'ANAS, come ad esempio la Salerno-Reggio Calabria. La maggiorazione sarà di 1-2 euro a seconda delle classi di pedaggio e scatterà da luglio, in tempo per le vacanze. Valentina Furlanetto, GR24. Il Sole 24 Ore. E il taglio del 50% dei contratti a tempo determinerà nel lavoro pubblico una perdita secca di 45.000 posti di lavoro. Questo è quello che sostiene il segretario generale del sindacato del pubblico impiego della CGIL, Rossana Dettori. Sentiamola, intervistata sempre al microfono della nostra Valentina Furlanetto. La nostra prima osservazione è che i sacrifici a tutti sono relativi, nel senso che chi pagherà pesantemente sono i lavoratori pubblici, che saranno sottoposti a blocco dei contratti, blocco del turnover, 50% dei tempi determinati che vengono mandati via, quindi in questo caso si parla di licenziamenti. E per quanto riguarda i nostri settori, in sanità ed enti locali sono circa 45.000 lavoratori che perdono il contratto di lavoro. Si tratta del blocco della contrattazione integrativa, che è una delle, come dire, delle motivazioni che danno vita al sindacato nei posti di lavoro, e quindi c'è proprio una rimessa in discussione del salario dei lavoratori e del posto di lavoro. Avete quantificato in quanto potrebbero essere le perdite per gli statali? Allora, noi abbiamo fatto una stima, tagli alle regioni sono di 13 miliardi tra regioni ed enti locali ed è una cifra notevole che farà ridurre, che piaccia o no, i servizi alle regioni e alle autonomie locali e li costringerà ad aumentare le tasse, compreso il ticket sulla sanità. Quindi se mettiamo questo, che non so dire a quanto ammonta perché non abbiamo ancora idea, perché molte di queste cose le faranno le regioni e non le fa il governo centrale, più il blocco dei contratti e della contrattazione decentrata, parliamo di circa 300 euro in meno per ogni lavoratore al mese. E dunque, adesso andiamo proprio a sentire che cosa pensano gli enti locali, molto critici in linea di massima. Sentiamo, oggi si è riunita, oggi riunione dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, la seguita Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Buongiorno. Per l'Associazione Nazionale dei Comuni la manovra così com'è è insostenibile, a dirlo è proprio il presidente Sergio Chiamparino alla riunione del direttivo. Il sindaco di Torino spiega che in pochi giorni le cifre sono cambiate: da 800 milioni per il 2011 si è passati al 50% in più, per il 2012 invece i tagli saranno di oltre 2 miliardi di euro. A rischio sono dunque i servizi per le scuole, le politiche sociali, la manutenzione delle città. Se si poteva accettare la sfida sulle prime cifre, queste rendono la manovra insostenibile. Sostenibile, dice Chiamparino, che propone anche di rivedere il patto di stabilità. Sentiamo. Noi diciamo portiamo tutti i comuni in pareggio, questo vorrà dire che chi ne ha di più può spendere qualcosa, no? E chi invece è sotto alla linea del pareggio del bilancio deve risparmiare. E quindi tutti pareggiano. Poi vediamo cosa produce questo per l'economia e i saldi di finanza pubblica. Se ci sarà ancora da aggiungere qualcosa, decideremo insieme come distribuirli su tutti i comuni. La manovra non va in direzione federalista, bensì centralista, spiega il presidente dell'Associazione dei Comuni, che lamenta la poca responsabilità affidata ai sindaci, trattati, dice, come scolaretti. Chiamparino critica anche il tira e molla che definisce parolaio della politica delle province in Italia. Avviare invece un percorso di aggregazione dei comuni, come avviene nel resto d'Europa, è invece via dell'ANCI, da come tutti gli Grazie a Maria Chiara Grandis. Nel frattempo si attendono le reazioni degli altri enti locali, sono riunite in questo momento le province, nel frattempo è in corso una riunione anche per le regioni, dalla quale è emerso intanto che Vasco Errani, presidente dell'Emilia-Romagna, è stato rieletto presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, un segnale che il presidente del Veneto, il leghista Luca Zaia, definisce innovativo, perché una maggioranza di centrodestra ha votato un uomo di centrosinistra. Qui ovviamente, ha aggiunto Zaia, siamo tutti della stessa squadra, non ci sono casacche. E ora la cronaca dal Giro d'Italia in chiusura di questa prima parte, sentiamo. Il via volante alle 13.55 da Levico Terme per raggiungere Brescia, 140 chilometri piatti piatti adatti alle fughe o a qualche velocista che ha voglia di togliersi ancora una soddisfazione prima del grande finale di domani e dopodomani. Il giro entra nella fase più calda nonostante il freddo che i corridori aspettano in salita. Domani il Mortirolo, sabato il Gavia. Col punto di domanda al momento sul Gavia 2.618 metri, la cima Coppi, la cima più alta di questo 93esimo Giro d'Italia, a bordo strade ci sono 4-5 metri di neve, ma al momento è praticabile, però tutti sono in ansia. In ogni caso gli organizzatori hanno già previsto una tappa alternativa e la tappa alternativa è ancora il Mortirolo, quindi potrebbero fare il Mortirolo domani e poi farlo di nuovo sabato da un versante diverso, inedito, il terzo, da Grosio, versante nord. In cuor suo Ivan Basso spera di poter scalare il Mortirolo perché verrebbe meno la discesa del Gavia, che gli fa molto più paura della salita. È tutto da Brescia, la linea dello studio. Le 13:18 minuti e 30 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo dato ampio spazio all'assemblea di Confindustria, è arrivato un ok alla manovra, ma dice M. Marcegaglia mancano interventi strutturali e l'emergenza nazionale è la crescita. E poi abbiamo parlato della manovra in se stessa, è stato confermato il taglio delle mini province e lo stop ai salari nel pubblico impiego. Adesso ci occupiamo dell'assemblea dei Vescovi Italiani. Assemblea Generale dei Vescovi che è stata aperta oggi dal Papa. Papa Benedetto XVI ha affrontato direttamente la questione della pedofilia nell'incontro con i vescovi italiani riuniti nell'Assemblea Generale di Primavera della CEI, per dire che la volontà di promuovere una rinnovata stagione di evangelizzazione non nasconde le ferite da cui la comunità ecclesiale è segnata per la debolezza ed il peccato di alcuni suoi membri. È da questa umile e dolorosa missione, ha spiegato, che occorre ripartire per promuovere il rinnovamento interiore dei sacerdoti. Ciò che è motivo di scandalo deve tradursi per noi in richiamo a un profondo bisogno di rimparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, dall'altra parte la necessità della giustizia. Un riferimento poi anche all'Italia, dove la crisi culturale e spirituale non è meno preoccupante di quella economica, con un appello agli imprenditori e ai politici. A fare quanto è nelle loro possibilità per attutire gli effetti della crisi occupazionale. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E mistero sulla vicenda di 3 cittadini italiani arrestati nella notte a Mumbai e Pune in India dopo che proiettili erano stati trovati nella stanza di albergo dove avevano passato la giornata di martedì a Nuova Delhi. Si tratta di Giovanni Cecconello, Donato D'Angelo e Giulio Pometto. I 3 sarebbero dipendenti della compagnia petrolifera malaysiana, la Petronas. E c'è un altro mistero in queste ore in Italia, riguarda un uomo d'affari turco. Ricchissimo, proprietario di un istituto di credito statunitense e con accessi privilegiati nella Federal Reserve. Un profilo allettante, quello che ha dato di sé Adnan Sakli, uomo d'affari turco residente a Rimini. Il suo patrimonio ha fatto gola a una banda di 9 uomini, 8 italiani e un etiope, che hanno così sequestrato Sakli a scopo di estorsione. Preso a Rimini e tenuto nascosto in un cascinale in Toscana, avrebbe dovuto incontrare i capi della banda a Roma, il suo denaro in cambio della libertà. Questo è il motivo dell'appuntamento, come racconta Nicola Vitale, capo della squadra mobile di Rimini. Sakli Adnan si reputa possessore di diversi titoli di credito. Lo scopo dell'organizzazione era estorcere in cambio della libertà personale una firma e una delega a poter gestire tale titolo. Uno scambio da capogiro del valore di 27 miliardi di euro, mandato però a monte dall'arrivo della polizia. I membri dell'organizzazione operativa tra Milano e Roma sono finiti in manette. Per l'uomo d'affari, però, la vicenda non è ancora chiusa. Con l'aiuto della Banca d'Italia, gli inquirenti stanno valutando la portata dei documenti finanziari sequestrati a Sakli. Molti dubbi ruotano infatti attorno alla sua reale ricchezza. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. Una truffa da 112 milioni di euro, la scoperta alla Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, a evadere il fisco 2 società con sede in Svizzera che commerciano in tessuti, denunciato un cittadino svizzero, amministratore unico di entrambe le società che in realtà operavano in Italia tramite lo stesso direttore commerciale. Come ci spiega il capitano della Guardia di Finanza, Salvatore Mirarchi, al microfono di Matteo Finco. Abbiamo chiesto alle società Autostrade per l'Italia S.p.A. abbiamo cercato di capire quali erano gli spostamenti di questo direttore, questo agente dipendente sul territorio nazionale. Abbiamo visto che gli apparecchi telepass montati sulle autovetture utilizzate dal direttore transitavano dai caselli Autostrade italiani e prossimi alle sedi delle società acquirenti. Nella quasi totalità dei casi i pedaggi autostradali combaciavano proprio con delle località molto vicine alle sedi delle società acquirenti. Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che la presenza in Italia delle 2 società svizzere attraverso l'agente dipendente era molto frequente, era molto costante. L'amministrazione americana lavorerà per resistere al protezionismo e promuovere la libertà di commercio e per tagliare la dipendenza dal petrolio straniero e assicurare una crescita equilibrata e sostenibile. Lo afferma il documento sulla nuova strategia per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, di cui sono state fornite anticipazioni. Ma intanto gli Stati Uniti sono ancora concentrati sulla vicenda della piattaforma della British Petroleum. Quel getto continuo, quel flusso nero che senza sosta esce, riversando ogni giorno da 5 settimane 800.000 litri di greggio nel Golfo del Messico, è un disastro che non ha più parole per essere descritto e che non poteva accadere in periodo peggiore, visto che questo è il momento in cui la maggior parte degli animali si ferma nella zona per riprodursi. I tentativi per fermare la fuoriuscita sono stati innumerevoli, l'ultimo dal nome evocativo, Top Kill, prevede 22 tonnellate di fango e liquidi densissimi gettati dentro il pozzo. In italiano l'avremmo chiamato il tappo. L'operazione è già iniziata e procede bene, dice chi presiede i lavori per la BP. Stiamo facendo di tutto per risolvere il problema. Ci vorranno 24 ore per sapere se i lavori hanno funzionato. Il presidente americano Barack Obama, visibilmente arrabbiato, ha duramente accusato la BP ancora una volta ed espresso la sua perplessità di fronte a questo ennesimo tentativo per il quale, ha detto Obama, non ci sono garanzie. Il presidente dovrebbe recarsi in Louisiana domani. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Oltre 400 giornalisti già accreditati dal primo mattino. Apre finalmente le porte nella capitale con le sue prime 4 mostre il museo Maxi, firmato da Zaha Hadid. A seguire l'inaugurazione c'era per noi Adriana Fracchi. Adriana. Sì, ciao Simone, come hai detto tu, 400 ma forse anche più, da giudicare dalla folla davvero numerosa qui di giornalisti e non solo al MACI, il Museo Nazionale delle Arti del XX Secolo, che apre a Roma questa 3 giorni di inaugurazione. Poco fa si è conclusa la conferenza stampa con il ministro Bondi, che ha preso qualche fischio, è l'ultimo dei ministri, numerosi ministri che si sono avvicendati nel dare l'avallo a questo grande progetto di Zaha Hadid, dell'architetto Zaha Hadid, l'iraniana Zaha Hadid, che era qui presente alla conferenza stampa. E in questa occasione 4 mostre daranno vita all'inaugurazione ufficiale, che sarà domenica 30 maggio per l'apertura al pubblico. L'apertura del MACI fa da volano a un weekend davvero tutto all'insegna dell'arte contemporanea. C'è infatti anche la fiera d'arte contemporanea qui a Roma in questi stessi giorni, e il Museo Macro, in fase di ultimazione, apre la sua nuova ala progettata da un'altra grande artista, Odile Deck. Ma abbiamo qui un ospite, il curator at large del Maxi Arte, Carlos Basualdo, al quale proprio velocemente vogliamo fare chiedere 2 battute su questo grande progetto che si apre e che rende Roma una città non più solo un museo a cielo aperto, ma punto nodale dell'arte contemporanea. Grazie mille, credo fondamentalmente che il Maxi è un'opportunità per Roma, per l'Italia e anche io direi per l'Europa. Sarà un'istituzione sicuramente innovativa, è un palazzo innovativo, avrà un programma innovativo e credo che permetterà in qualche modo solidificare il sistema museale dedicato all'arte contemporanea in Italia e dare un protagonismo alla scena italiana a livello internazionale che è benvenuto. Grazie a Carlos Basualdo. Ecco, l'anno scorso era Venezia il punto nodale dell'arte contemporanea, quest'anno è Roma, l'Italia continua a farsi così forte nel mondo anche per queste cose importanti. Grazie. Grazie. Restituisco poi la linea. Grazie dunque alla nostra inviata Adriana Fracchia. Si chiude così questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.